sì, dalla linea gialla. Ragazza, riecco. Cavolo, qua da Bricome sempre gente c'è, non ho visto mai un giorno con 10 macchine, tutti i parcheggi pieni, la fila al semaforo. Beh, hanno tutto, quello che ti serve. Anche la domenica è aperta, c'è un gente al mattina presto, purtroppo. È così, ma è buono, è comodo, perché trovi tutto. Sì, hai ragione, io adesso stavo cercando un gancio per la bicicletta, perché quello che me la teneva si è piegato, perché è troppo pesante, c'è la batteria dietro e quindi si è tutto piegato. E allora ne ho trovato uno più robusto e dovrebbe andare bene. Capo, vediamo se senti Emanuele da là. Emanuele, vai avanti per Carlo. Ciao Emanuele, già ti sento qua, forte e chiaro. Dietro da Bricomen al semaforo, diciamo che ne esce sulla vecchia 131, dai, Santa Orsola, quel bivio lì. Però sono fermo perché c'è la fila al semaforo. Il radio meno lo ascolti, Carlo, Emanuele meno lo ascolti il radio. Sì, già lo sento bene qua, Tony. E anch'io, la Torino sente in basso il radio. Beh, Emanuele mi ha detto che l'antenna ce l'ha un po' in posizione precaria, quindi sicuramente per quello. Ma prima ci usciva più forte il radio, ieri. Non lo so, io lo ascolto sempre normale, lo ascolto. Dipende dal frigorifero, se è molto pieno esce più forte, se invece l'ha svuotato è ovvio che c'è più debole di radio. E allora l'ha svuotato perché sta sempre mangiando. Vi ascoltavo anche prima, solo che non avevo messo l'antenna e comunque prendeva lo stesso, sentivo te, Emanuele, Franco mi sa che c'era, però avevo l'antenna dentro il confano, capito? Anda bene. Vabbè, non c'è altro nessuno nel TG. Quindi. Ah, Franco sta facendo il microfono, già è vero. Ho capito. Gianni, non si è sentito? No, ancora no. Gianni, passi un colpo se ci sei. Svegliati da quel letto. No, sveglio già e sveglio, di quello sono sicuro. Attenzione, Gianni. Attenzione, canale binario 10, allontanarsi dalla linea gialla. Va sendo apparato allora, dai. Sta giocando a puzzle. Io in Sant'Antonio. Quindi oggi no, hai finito di lavorare, Carlo? Allora, oggi e domani ho 2 giorni di ferie e quindi non ci sono andato. Ah, che bello. Il primo di febbraio sono libero e poi ho una settimana di fuoco, perché ho praticamente 2 turni che finisco a mezzanotte, dalle 16 alle 24, e poi 2 notti consecutive perché manca un sacco di persone, capito? No, capito. Quindi domani, dopo domani c'è riposo, meno male. Allora domani ci possiamo fare una bella colazione, una bella pasticcia. E io già sono anche domani mattina libero, perché tutte le faccenduole me le ho fatte oggi lo stesso, ero dalle 9 del mattino con mia moglie in giro e sono rientrato a mezzogiorno e mezzo, e adesso sono dovuto riuscire, mi serviva un'altra cosa da Bricome, adesso me ne rientro a casa e non esco più, poi già magari mi sentirete dalla radio di casa. Brecchi, avanti, abbassa. Brecchi, avanti. Mi pare che c'è il break di Gianni. Tony, ma lo dai un controllo di segnale radio? Fondo scala, radio 5, bomba. Ok, grazie Tony, dai, riprendete. Dai, un controllo di radio che ho fatto con lavoro a questo microfono, vediamo un po' come va. Ciao Gianni. Ciao Tony, com'è la radio? Forte. Forte e chiara? Yes. Cambio basso. Beh Gianni, come va? Microfono mi sembra che vada molto bene. Carlo, io ho fatto quel lavoretto, adesso devo provare la capsula, vediamo un po' se va meglio così o cos'ha. Vai, provalo già, penso che la batteria fosse buona, Gianni, sentito ho detto Emanuele? Mi sembra una prostituta, già l'ho sentito, sì. Tu cosa vuoi fare, un bagnaccio? Capola, ti sto ascoltando, mi sembra che vada bene. Mi sa che non è il cambio di capsula. lascia quello lì che va bene. Gianni, è la voce tua, ma tua, eh. Ma bella amplificata, Carlo. La voglia. Caraga, va là. Va bene, là. L'ho fatto un bel lavoro, allora, là. Adesso sei buono, Manuè, Santiago 9 spaccato. Lascia tutto così, non aprire più il frigorifero neanche la cucina. Attenzione, canale 10. Gianni, oh Gianni, oh, Carlo. Dimmi, Tony. Poi già, vabbè, domani mattina ti chiamo e ti dico il tutto, dai. Ehi, scusami che stavo facendo la rotatoria. E mi non ti gira neanche il microfono intorno allo sterzo, come ha fatto qualche persona. No, già ce l'ho sulla gamba io. Che col farla la baracchina girava e girava anche col microfono tutto intorcigliato. Dai, domani poi già sono libero e nel caso ci sentiamo. E poi già chiamo Gianni direttamente. Ok, dico El Todos, che il baracchino non è che mi piace più di tanto, ci sono troppe orecchie però. Senza radio sei rimasto. Bubu. Ciao Tony. Ciao. Non la Ross. Dove mi ascolti in radio? Bene. Bene. Sei seduto qua vicino a me. Cosa mi stai dicendo? Bene. Radio a Dubai. Bubu. Ciao Carlo. Vai Tony. E K. Vabbè, anche gli altri mi hanno dato un'ultima radio. Meglio così, dai. Avanti Carlo, per Giulio. Buonasera Giulio, ben sentito. Anche tu qua mi arrivi a bomba, eh. Adesso sono a Santa Maria di Pisa, dove c'è la chiesa. Ok Carlo. Vabbè, siete con 2 watt. Dunque non ho pretese. Comunque sono contento che ti arrivo bene. Va benissimo così. Poi chi c'è? Altro in frequenza? Tony, fammi luce. C'è Franco e Corix senza facendo il microfono, poi c'è Gianni doppio run che non lo so, l'ho chiamato ma non ha ripreso, comunque è sempre il canale. Poi c'è Manuele che con l'antennino interno, quindi non so se l'ascolti. Vedremo, dai, vedremo se l'ascolta, adesso lo rilancio. Ciao Gianni intanto nel frattempo e ciao Manuele e ciao Franco anche. Vediamo se mi ascolta Manuele. Manuele ci sei? Mi sa che c'era Natalino anche. Ah, è giusto, anche Natalino, pardon, Natalino sempre in ascolto perché ogni tanto scattopeggia un po' qualche frizzella. Ah, saluto anche Natalino allora, ciao Natalino. Comunque non lo sento io a Manuele e Tony, non lo sentono. Non ha parlato. Attenzione Manuele, Cicomi. No, forse sta provando a mettere la massa. Quel cavolo di antenna, tutto qua. Vediamo un po' se sento Gianni, niente da fare, nemmeno Gianni sento, vabbè dai, forse sono in stand-by per un momento. E Natalino lo sento, vediamo, Natalino, sì? Ciao Giulio. Ciao Natalino, dai, ho messo a posto l'antenna perché avevo 3,5 di stazionarie, non era l'antenna comunque, era solo il bocchettone che era talmente ossidato che non faceva più contatto, per cui ho dovuto buttarla giù e l'ho rimessa, però adesso è bassissima, tu immaginati il davanzale, un metro più in alto del davanzale, niente di più, vai Natalino. E comunque stai dicendo bene, io ti ascolto bene. Ok, vabbè dai, tutto questo diciamo sono rimasto all'asciutto circa una settimana, appunto, infatti non potevo nemmeno ascoltare perché ero senza antenna, appunto. No, l'antenna non aveva niente, anzi devo dire che è perfetta, pensavo che la fibra di vetro si fosse un pochino rovinata, ma niente affatto Natali, è nuovo come il giorno che l'ho montata, per cui è liscissima, molto bella, pulita, senza nessuna affare. Vai Tony. Capo, qua sta arrivando a 9:20, la radio 5 è perfetta, amplificata, oh Giulio. E tu perché? Più basso ti credi che sei? Perché sei su quei livelli, insomma? Io segnale sono lo col digitale perché ha barrette, però diciamo che vai abbondantemente sopra davanti al 9, dunque suppongo che sei intorno anche tu, 9:15, 9:20 o Tony. Aspetta, siamo il coso, l'RF Power diciamo più basso. Adesso come ti sta arrivando Giulio? Meglio? No, la radio era perfetta anche prima, leggermente più bassa ma è ottima, ottima veramente. Anche adesso non c'è problema, Tony. Ok, no, lascio. Stavo uscendo roba di 2-3 watt, stavo uscendo. Scusa, il baracchino sto uscendo. Già va bene, dai. Anda bene, Gianni, sei entrato? Gianni, il microfono è indaffarato. Stava provando a focarsi. Carlo, ci sei? Ho detto Gianni indaffarato che sta provando il microfono. Ma andava bene, poteva già chiuderlo e fare il tutto. E sicuramente sarà mettendolo a posto, dai, già si farà sentire dopo. Giulio, tu mi arrivi sempre bene qua, comunque anche se hai abbassato l'antenna. Adesso sono in via Solari e vi ascolto tutti quanti in fondo scala. In via Solari vicino, dai, linea d'aria, io arrivo bene per la zona. Ok, io Carlo, ok. Sì, ho tolto un palo di 2 metri, ho tolto, adesso sono. Tu immaginati da avanzare della finestra, un metro più in alto, niente di più. Comunque va ugualmente bene. Anzi, in inverno va anche meglio, così almeno quando c'è vento oscilla anche di meno. E stavo dicendo, Tony, il problema delle stazionarie a 3,5, sai qual era? Dove si avvita il PL, era completamente ossidato, per cui non faceva sicuramente un bel contatto, perché l'antenna l'ho smontata tutta, pezzo per pezzo, ho controllato dentro i collegamenti se fossero stati rovinati o bagnati, assolutamente niente, proprio perfetto. Il problema era il bocchettone dove si avvita il PL completamente ossidato, Tony. Ma chi è che sta mettendo la portante? A parla bene, sto provando una radio. Buonasera a tutti, scusatemi, California era questa. Scusa, io non sentivo Giulio, spariva tutto qua. Ma no, dai, un rapporto, Tony, fa la cor. Ciao Giulio, buonasera. Scusate per la portata, stavo provando un microfono, dai. Sempre 9.30 fa, RL5 è a bomba. Sì, Giulio, la seguo, ma sono, va bene. L'accavallamento è importante, non è un problema. Riprendi. Ho detto, cioè, mi stai ascoltando bene. Benissimo, benissimo ti ascolto, come Tonino. Tonino, piuttosto la radio mi piace di più, quella di Tonino è un pochino più bella, secondo me. Non so come spiegartelo, però va benissimo anche la tua, non c'è problema. Ok, dai, vi ringrazio e riprendo dopo. Grazie a tutti, dai, riprendo subito. Ciao. Ok, fra. Siamo qua. E forse la mia tonalità di voce, Giulio. È probabile, Tony, è probabile, perché anche lui non è che c'è basso, è abbastanza forte, però la timbrica tua è più bella, dai, è un qualcosa di più bello, ecco, non so come spiegartelo, dai. Tutto lì, fai girare, Tony. Capo, io c'ho la voce grossa, capito? Sarà per quello. Anda bene, Carlo? Eccomi qua, sono che via era questa, dove c'è l'incrocio, dove c'è la farmacia, via Grazia Deledda, al semaforo, su in alto. Dove c'è la chiesa, ho capito. Via Manzoni, dai, non mi veniva. E Alessandro Manzoni, yes. Ah, quindi te ne stai rientrando allora? Sì, 5 minuti, adesso arrivo a casa, scarico un po' di roba e poi nel caso ci sentiamo più tardi se attacco la radio in casa. Quindi fai via su, ci si può di nuovo, sei quasi arrivato. Ecco, positivo. Sì, ho sentito Franco, anche lui arriva forte. La radio, insomma, 9:30, buono, No, sei vicino a Franco, quella zona. E poi anche un palazzone lui, va bene, dai. Io che sono fuori Sassari, sono in campagna. Tu sei vicino a me, non sei in campagna, sei seduto vicino a me. Magari giù. Io sono prima di Saccavillo e sono all'interno, tra l'altro ho fatto un flinto in cemento armato, affogato il tubo e quindi messo 6 metri di palo, tutto qua, il mio lavoro è questo. E ho un'antenna come quella di Franco, uguale identico. E quindi, cosa ti posso dire? Le mie condizioni di lavoro sono queste. Ok, Tony, io la Game Master, la solita antenna, come quella che ha Natalino, con la differenza che io ce l'ho già 4-5 anni, la Game Master, più o meno, compreso quella che avevo autocostruito, ma era simile, perché intanto le misure non le avevo ricavate dalla Game Master originale, mentre adesso già da un paio d'anni, 2 anni e mezzo più o meno, ce l'ho proprio originale, non c'è problema. Va bene, comunque va ottimamente bene, Tony, e per quello che serve anche per sentirci noi, e la voglia, ce n'è anche troppo, Tony. E il K ci va bene, dai. Io mi devo sentare 2 minuti contatti, ed ho mangiato un piccolo vasetto di budino al cioccolato, e lo voglio mettere nella pattumiera, e che lo metterò al bagno. Dai, riprendi Natalino e fai girare. No, aspetta un attimo, io non posso riprendere che sto facendo cosa qua, dai. Vi ascolto. Va bene, allora riprendo io, dai, attendi pure Tony, attendi pure anche tu Natalino, non c'è problema. Vediamo un po' se mi senti ancora Carlo. Carlo, vai. Buona voglia Giulio, adesso sono in via degli Astronauti, ho appena passato le viadotto e sono in via degli Astronauti dove c'è Sabatino Lorenzoni lì. Fermo al semaforo, ti sento forte e chiaro come prima. Ok, anche tu mi arrivi benissimo, non c'è problema. Segnale molto alto, nonostante che sei in barra, per cui va benissimo così, non c'è problema. Vabbè, io ti sento sempre bene a te, solo quando vai verso Alghero o sul posto di lavoro, chiaramente quando cominci ad allontanarti allora ho difficoltà ad ascoltarti. Non so se tu riesci ad ascoltarmi, che lontananza, però io a te dopo un po' di chilometri non riesco più ad ascoltarti. Io già ti sento Giulio, quando andando a lavorare ti sento sino a quasi all'aeroporto, ti sento, poi ti sento più basso quando sono in mezzo agli alberi, capito? Però già ti sento anche al parcheggio, magari è io che non, con l'antenna della macchina magari non è dappertutto che arriva, capito? Però già va bene la tua antenna. Ok, io Carlo, sempre con 2 watt, sempre, sono contento. Dunque praticamente a Fertiglia, quando sei a Fertiglia sul posto di lavoro mi senti ugualmente, confermi? Sì, positivo Giulio, ti sento bene, anche una volta che tornavo da Bonorva ti ho sentito da Giave, ti sentivo che ero in alto, perché ho fatto la provinciale Bonorva-Giave, quindi là sali in alto oltre 500 metri, poi quando sono sceso non ti sentivo più, poi dalla Campumela lì, quella zona, ti ho riascoltato. Certo, la posizione alle volte è fondamentale. Sì, vabbè, mi dovrebbero sentire anche, non con queste, in queste condizioni, ma mi hanno sentito anche all'ingresso di Olbia, per cui non mi lamento. Dai. Altri tempi però, Carlo, altri tempi, non di questo periodo. Più tardi se ci sei ancora, ciao Natalino, ci sentiamo dopo. Ok, ciao Carlo, ci sentiamo. Tonino sta facendo un lavoretto e anche Natalino, dai. Comunque anch'io rimango in standby e poi eventualmente se rientrano vediamo un po' di riprendere. Ciao a tutti al momento, grazie per la chiacchierata. Ciao a tutti, chiudo. Ciao Giulio, a più tardi se va bene, ciao. E anch'io rimango in standby, ciao a tutti, dai. Alle prossime, che sto facendo cosa oggi? Quindi diciamo. Ciao Natalia, dopo. Ciao Carlo. Attenzione canale 10. Hola. Hola, 1, 2, 3, prova. Hola. Attenzione Gabino, ci sei? Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, wow. Alla linea gialla. Attenzione Emanuele. Gabino, ci sei? Ora attenzione canale 10, c'è qualcuno? Ora attenzione 10. Attenzione sul canale 10. Prove tecniche di trasmissione, controllo radio. Hola. Ciao Gianni, buonasera. Ui, capito, beh. Ui, già, e allora? Fatta la modifica. Fatta? E qua? Ce l'hai portata di mano? È questa, guarda, non lo senti? Yes. Aumenta un po' il volume già. Guarda, vedete, guanci, un primo l'hanno fatta abbassare. Una portante bianca. Aumenta un pochino la portante bianca. il volume? A 10. E il mic gain della radio? E il mic gain della radio a quant'è già? Aspetta che sono al buio, devo accendere. Sì, dai. Al massimo. Ah, ho preso modulazione. Perché passa e guarda, 1, 2, 3, 4, 5. Già una bomba, lascialo così, lascialo così. E ti dice abbassare e si mette le cuffie. Non ho cambiato manco la capsula, perché andava bene questa. No, no, no, no, no, lascialo così che è bello amplificato. Guarda, magari portalo a 9, non lo tenere al massimo, portalo a 9, però lascialo così. Guarda, adesso a 9, 1, 2, 3, 4. Già c'è. Un po' più di zampe te lo devi tenere. Magari quanto è? A quanti centimetri sei più o meno dalla bocca? È un braccio lontano. Ah sì, è un braccio lontano. Caspita! No, mollalo così già. Lascialo così, io qua ti ascolto, qua è una bomba, sì. Guarda, adesso sono più vicino, guarda. Ehi, 9.30, 9.30, radio Super 5 già, quando le mie coordinate, comprensibile, cioè la radio è perfetta. Carlo mi ha detto che la voce mia è come se fosse verticale. Chi? Carlo mi ha detto che è come se fosse la mia voce verticale, che si sente benissimo. Ma scherzi, ma scherzi, la bagna a radio, bello, bello, bello, bello, bello. Cosa sei con lo Supercar? No, col Garage. Guarda, guarda che bello che è. Lascialo così, lascialo a 9, magari se ritieni che te lo devi avvicinare un po' alla bocca lo abbassi di 1 o 2, però così a distanza di un braccio sei perfetto, ti dicono di abbassare perché sei forte e va bene, la radio è bella corposa, la radio è corposa già. Va bene, dai. Ma hai letto il messaggio, capito? Il messaggio mi ha mandato un messaggio su WhatsApp, ma su Messenger. Mi fa vedere. L'ho letto adesso. Ce l'avevo anche sul 20, ce l'avevo super fatto sul 20. Però non ho sentito nessuno. Lasciala così già, almeno per me devi lasciarlo così, poi non lo so. Sì, ma non tocca, se è mongolata. Sì, va benissimo. Caspita, guarda, c'è il volume dalla radio a 4, sembra di sì qua. Se vedi, questo microfono è nuovo di zecca, non ci può dire niente, non c'è un graffio, niente, perfetto. Sì. Ascolta, ma con la radio è disinseribile il bip. Via. Prova a toglierlo. Prego. Buonasera, Blacco registrato. Un attimo che stiamo facendo una prova. Vai già. Fammi entrare che... Aspetta che lo tolgo. Allora. Ecco tolto. Guarda, adesso non c'è più. Una KF sembra, è molto presente come radio, eh? È molto molto molto presente, hai visto che era una stupidaggine a fare quella modifica? Sì, più che altro la roba che ne ho tolto, cacciaviti, quello, quell'altro, soldatore, sono costato meglio la buona opportunità. Vabbè, però hai avuto un bel risultato veramente, non... io l'avrei lasciato così già perché qua da me sta arrivando è un fulmine, è una schiappettata, è bello, bello, bello. Avanti, buonasera al Breco, 27075, compagnia di Gianni Doppiorumo e Joker qua al Mike. Buonasera, avanti. Ciao Gabino, buonasera, ben ascoltato. Ciao anche a Gianni e ciao anche a Joker. Buonasera a tutti, Gianni, dai un po' più di preamplificazione. Questa è già a 9. Così al massimo, classico. Lascia al massimo e amplifica di più, sennò sembra che non hai un amplificato. Al massimo è amplificato, io se regge, se non fischia, buona la manetta. No, non fischia nulla. Questo era il più 4. Stasera mi è venuto lo schermo di fare la modifica. Già va bene. Ottima radio, lasciala così, si assomiglia molto a quella che usavi un periodo col Galaxy. Lasciala così, ciao Galaxy. Gavino, ciao Fraccola. Mi sta ascoltando, sono entrato solo per dirti questo. Lascia la manetta che già va bene. Ehi, Fraccola, grazie per il controllo. Se vuoi restare siamo qua. Avanti Franco, buonasera. Ciao Claudio, buonasera. Buonasera anche a Gianni e anche a Gavino. No, no, rimango in quell'istri, sto facendo cosa, sono in altre frequenze, ripeti Gavi, ciao Fra, un abbraccio, ripeti Gavi. Lei, ehi, vai tranquillo, vai, io sto usando il microfono originale che è in volume adesso, lo sto facendo girare un pochino, e niente, sì già, lascialo così perché va bene. Te l'ho fatto abbassare a 9 per non farlo girare sempre al massimo, perché altrimenti la batteria deve cambiare ogni due giorni, però hai visto, anche lui ti ha detto di più, dai, chi ha radio e ti può fare la comparazione fatta bene, ti può dare un buon diciamo un buon rapporto, senza quella radio, cioè io la preferirei più senza quel beep, senza il beep finale. Vai già. Ah, non c'è il beep, l'ho tolto. Sì, infatti è meglio. Io ogni tanto lo muovo per vedere se va. Poi me ne dimentico di tuggerlo. Ehi. Vai Franco, ripeti, comunque Joker e Gavino sono la stessa persona. Vabbè, non lo sapevo che c'era il nominativo di Joker. Ok, a me bene, mi ascoltate? Sì, quelle zone. Sì. Bene, senza problemi. Radio 5, segnale 9 più 10. Segnale 9 più 10. Mappa di positivo, dai, voglio provare il Tanner qua, a vedere come esco. Questo è il suo microfono originale. Sì, andava. Va bene, riprendi già. Se mi salta lo scrivito le la metto la capsula del Tower più 3. E quello lì dovrebbe andare bene. Certo, dovrebbe avere anche più o meno le stesse dimensioni. Però va dietro, sono due fili, li approvi. E dovrebbe andare bene. Hai visto, a volte bastano due fili che ti fanno cambiare la giornata la notte. Sì, certo, perché bypassandola praticamente non fa uscire la radio con tutta la sua potenza, la reprime proprio. Beh, quelle due resistenze hanno funzione di una specie di, diciamo, delay, che non ti fanno superare certe soglie nel picco di modulazione, quindi come diciamo che delle trottature, come che delle trottature nella radio. Può avere la radio con tanti watt, con tante cose, la radio più bella del mondo, però quando hai il microfono che è limitato, che è trottato, non risolve nulla. Adesso è proprio libero, adesso è libero perché con le resistenze si possono anche togliere, però lasciagliele, non si sa mai. Infatti. Franco, non stai uscendo di radio, chi è? Somma. Ma tu Franco, sì. Questo è Giovanni Stanco, secondo me. Non capisco cosa dice, però mi sembra lui da come fa. Ecco, guarda come va questo Tanner più 3, cambio. Già va bene, Fra. C'è Stanco, ma non esce di radio, esce basso basso. Attento, Giovanni Stanco. Stai uscendo di radio basso, aumenta il Michigi. Non è Giovanni, perché qua vicino alle coordinate mie non... Io non lo sento neanche la portante, quindi non è in queste zone. Ma è nella zona di Sassari sicuramente, capito? Arriva 9.30 qua. Attenzione amico, chi è l'amico che stava chiamando? Ma attenzione, Giovanni Stanco. Non è che è in zona di Muros, no. Attenzione canale 10, chi chiamava? Avanti. Non riesco a capire cosa dice. Aumenta quel microfono, Giova. Su di là. Sto uscendo piccolo. Non lo so. A me bene, mi ascoltate, sì. Questo è il Tanner, Gianni. Sì, ti ascolto bene, Fra. Ascolta, Fra, ma l'MB+4 ce l'ha il lock. Il lock? Sì, il tasto. Certo che ce l'ha, lo devi premere, praticamente spostarlo tutto a sinistra, capito? A destra. Premi lock e sposti a destra. Ah, beh, che pronti. Stavo sbagliando. No, questo non c'è. Sì, Gianni, premi lock, premi la portante e vai poco poco a destra. Ecco, ecco, fatto. Adesso però le dici più a Cavani. Esci a troppo. Qual è già? Quello con la mascherina nera o la mascherina grigia? Quella mascherina, quella che c'è dove c'è il volume? Sì, positivo. Quella è grigia, è diciamo di latta. Eh sì, sì, è l'altro tipo. È l'altro tipo, quello che ho io è quello che c'è la nera, è nera e gialla, quella lì è grigia e nera, quella è scritta nera. Se provi quello con la mascherina come quello che ho io è ancora meglio di quel del TAN, del MB+4, perché è stato costruito con un'altra... Dai, sono diversi, anche i componenti sono diversi. Sta uscendo bene, sì, aspetta che mi ascolti. Ma stai scherzando, ma poco ascoltarti, questa è perfetta, amico. È perfetta. Io adesso ho messo le MC80 di nuovo. Gianni, io ti ascolto benissimo. La radio va bene, è tutto. Caragala, questo qui è il Galaxy con l'MB+4, ha cambiato microfono nel Galaxy. Vabbè, l'MB+4 già va bene, ma anche il Tanner è un bel microfono. Qua la tua radio ha migliorato dal giorno alla notte. Dal giorno alla notte. Vabbè, io sto usando un Tanner di quelli grigi, di quelli americani, capito? L'ho adattata su questa radio che sto modulando adesso. Sì, ma infatti ha cambiato dal giorno alla notte da poco fa, eh. Molto più potente la radio, molto più presente, dai, la bombetta, va bene. Va bene. Io ho messo il microfono amplificato, adesso ho messo le MC80 e con lo stesso MacGyver di poco fa dell'originale. Io non ho già fatto meno, cosa è stato il mio, non ho già fatto meno. Il Radio 5 ottima, buona, è di lusso alla grande, non c'è problema. Sì, questo Tanner qua io adesso è a 2, lo posso ancora aumentare a sì, ma no, va bene così, non lo aumento altrimenti va a strappare. Vai, prova a metterlo, se a 2, mettilo, prova a metterlo a 3 e mezzo, vai. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alla grande, aumenta, busta a 4, vai che è alla grande. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ente già, hai visto del radio, la confermi? Cambia la musica. Franco, lasciala così. Cappa di positivo, se va bene così lo lascio così. Comunque automaticamente non sta neanche strappando adesso. Tanando sì dalla linea gialla. E sta arrivando l'ecco qua. Ehi, ciao Turì, ho detto per la cronaca, mi sono bruciato il dito col salvatore, mi sei fuggito. Mettiti un po' di sale che passa. Meno male non ti sei bruciato un'altra cosa. Ciao comunque Gianni, Franco e Gavino. Ciao Turì, buonasera, ben ascoltato. Già che ti passa subito. Franco, a quanto è adesso il volume di quel microfono? Qua se lo aumento va a strappare, praticamente ce l'ho 1, 2, a 3. Metti a 4 a vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rimettilo a 3 e lascialo a 3 che era alla grande. Lo lascio così, va bene, sì. Alla grande, una radio di Super 5, bella, presente. Vai Gianni. Facciamo a Tonino che è appena entrato. Tonino, cosa hai fatto? Cambiato microfono? Ho sempre l'SBE da tavolo, dai. Niente, poco fa ho fatto un bello spuntino, guarda, con parmigiano. Avevo una baguette, l'ho fatta a fette fine. Era una delizia, guarda. Io stasera con un olivo devo stare, perché fra poco devo fare l'analisi. Analisi che cosa? Di sangue? Urina e sangue e via dicendo. Devo andare poi al diabetologo. Così tardi? Cosa vuol dire così tardi? Ah, deve andare domani però. E allora, non domani, in questi giorni, no, devo fare dieta, se no ando con la glicemia alta. Bravo, fai dieta, così già mangi a posto tuo. Sì, vabbè. Non crepo, non c'è problema, poi già non so, quando c'è da mangiare mangio. Io mangio un gelato tra poco, aspetta. E come me, Gianni, e bevo. Cosa dici già? Chi è va? Davvero, io qua, a Monte d'Accudi. E cosa stai facendo a Monte d'Accudi? L'ho messa. Cudendi. E se non ti passa il figliolino? Oia, ti ha già detto che ti ha già provato a pulire un laccio, non stava. La camera d'aria deve usare. Oia, tu mi turbi, Tonino. Qua coordinate Piazza Fiume, sperando che mi ascoltate. Papà, ti ascoltiamo, Salvino. Com'è questa radio? Come la senti? Tanto già, una bombetta, sì, una telefonata. Cappa, dai. Stasera mi hanno fatto questa BB+4, ho fatto la modifica. Guarda questa radio, Salvino. Come? 1, 2, 3. Davvero? Sto bracco che mi fumo, mi pare una lavatrice. E tu una cosa, una lavastoviglie. Una lavasciuga. Forte e chiaro qua, come dirate Giardini, direzione Monte Rosello, ora vi metto la portante. Arrivendi, attenzione a voi, non sbagliate, se no vi faccio fare col muro stanotte. Allora tu col muro? Vi faccio parlare col muro. Ma tu Sammy stasera non lavori? No, lunedì sono libero io da 7 anni, caro amico mio. Ah, ecco perché. Dai, ti facciamo lavorare anche lunedì, così almeno lo metti la portante. Oh, vi faccio lavorare io a voi stanotte, oia! Ma giro in macchina, sì. E allora, MBM sono. Sto cercando qualcuno, metto la portante, mi adesso vengo sotto casa tua e ti faccio fare col mulo. Vieni, ti butto l'acqua calda. Oia! Faccio la luce all'acqua calda. Dove pare vero, gatta, c'è un vidro, c'è la gandaglia, allora come posso la luce? Ma la calda così non penso che ti piace, ti decida a vedi. Tu mi hai detto, va a casa, mi, non picciù. Opa. Ehi, Tony, dimmi. Ma la 68S ha 80 canali, lo sapevi? No. Ho provato io. Sono salito, ho seguito 80 canali. 80 per banda o 40 per banda? Anche per banda, se sono AM e V. HKK. AM e FM, giusto. Cosa ne ha? 80 AM e 80 FM? Sempre 80 sono me. Vabbè, ma sto dicendo, ne ha 80 AM e 80 FM. Tanto, sempre con la frequenza OM e FM, quindi non lo sapevo che era 80 canali. Capa, no, già arriva bene. Io non lo so, vi sento tutti i diritti al cuore. Ai, che bellino. Ai, quanto siete capi. Ai, Salverio. Anima lunga. Beh, te, Natalino, a sala di Rina Plantenna. Natalino, secondo me c'è la matrice. Ciao Natalino. E di Natalino? Ha detto Salverio che c'era Natalino, non l'ho sentito. Era vicino. Ah, Giuditto, ero sotto casa Soglia. Nulla, c'è accesa la matrice, ma non si è reso conto che ero io. Ah, balla. Avevo capito che era entrato. Saluto, grazie, non sono uscito, ma nulla. Boh, non avevo proprio gana. Io ho i piedi, siamo due pezzi di mare, Maru. No, non ero io stasera, sono uscito stamattina. Stasera no. Anch'io stamattina posso è uscito. Ho fatto un paio di giri. C'è dei ventenni, troppo mandroni. Quanta catarantella, non vedo un cani. Io guardo, ho girato, dice, farmacia, non ho trovato quello che devo prendere. Il gadran per il flusso. Non ne stanno facendo, li posso dare a quest'altro? No, lasci perdere, non lo voglio, perché vedete che c'è sapore brutto quello lì. Allora, per il flusso ci vuole il Gaviscon. No, quello che prendo io è molto superiore al Gaviscon. Io piglio Gadral, che è 100.000 volte migliore, poi c'è sapore di pompa, ma che buono che. Ari Gadarani! Ah, no. Comunque hanno liberalizzato la farina di grillo, occhi. Sì, lo so. Anche uno spiro che lo prodotti, uno spiro, e lì mi pare Conad, quelli li ho lì. Adesso lo mangiano come non mi attessi. Ehi, che sono i sai se non buono ne hai scritto? Oh, yeah. Chissà che tu ti devi fare mai. Sapevi fino a fare il bistico con la farina di grillo. Oh, Peppe Grillo, se non vuoi mai da fai. E beh, Gianni, dritto al cuore ti arrivo ora. Che mi arrivi bene, sì. Certo, il gatto vuole una telefonata. Tu fai una videochiamata a me. Ah, scala, sì, sì, sono in casa. Così è, salvito. Se prendete, riprendo subito già, che devo fare alcune cosette qua, dai. Te a chi mi vuoi fare la colonnina? Ah, faccio più, Guaru. Sapete, c'è anche Gavino, dai, Gavino, vai, va. 9.25. Gavino, riprendi. 9.25. Ah, Tony. Sì, 9.25, sì, qua. R2.5. Allucinate, col baraggio con la marchia, non mi posso criticare. Faccio un portate le contre fatte, e no che si piazzo 200 watt in macchina e faccio un culo cacchettino. Ma non è tu, sì. Adesso sono di fronte al giardino Elmo, vicino a quest'una, Tony. Sei sempre forte qua. È buona quella antenna, costa poco ed è buona tu. Quella mia? No, oh, quella che ha comprato Salvidio, che c'ha Salvidio. Quella che ha praticamente la carica che si vede dall'esterno con la plastica trasparente. Ho capito, no, già esce bene. Ma anch'io per avere un'antenna del 50 euro, caspita, esco bene per le parti. Vai sempre bene. Io diventerò adesso vegetariano, allora mangio verdura, frutta e carne, così non mi futti lo grillo. E altrettanto ti dico, se so che c'è farina nella pasta o roba del genere, non ne mangio più. Savi, adesso mangio almeno pizza la gente mia. Saverio? Questa portantina. Basta che metta, non usiamo farina di grillo, è il cartello. In questa pizzeria non si usa la farina di grillo. Usiamo solo la farina e scarafaggi. Che schifo. Hai visto la Woody Woody che ne fa di un botte? Appena inaugurato l'avevano, quanto tempo è che l'avevano inaugurato quel ponte? Dove passa quel fiume sotto? Esatto. Era un bel tempo per finirlo del tutto dopo tanto e vanno e crolla di tutto, ah, per carità. Adesso la chiudono Woody Woody, buonanotte. L'hanno già chiusa, so che hanno fatto a un senso solo, quello per scendere, che è il doppio senso di circolazione, mi sa. Ma lì sotto passa l'acqua, giusto? Sì. Beh, perché la potevano fare, che ne posso dire, una sella in cemento armato e poi sopra il ponte, così evitava. È che adesso non l'ho progettato io, la strada non l'ho progettata io, l'ho progettata l'ingegnere. Sicuramente sono stati fatti bene i lavori. Quando fai una sella in cemento armato, a voglia che siete bene e non succede nulla, capito? Fai qualche battipalo con la geosonda e ci fai proprio le gabbie dentro al battipalo, il battipalo come facciamo più pensando, che ne hanno fatto centinaia per reggere tutta la centrale, a voglia, col cestruzzo. E qui oppure facciamo una bella sella lì, ci metteva il cestruzzo, vedi che non andava da nessun posto, poteva farla se non te pare Biazzi. Invece, nah, per carità, lavori che. Gabino, riprendi! Ma avete lasciato da basso, Gavino se ne è andato. Io all'inizio da solo entrato ho salutato a tutti, anche a Gavino, poi ha mollato, si trova Gavino a parlare. Io comunque ho salutato a tutti, ti mi avrai sentito. No, non è che sto dicendo a te. E bisogna far girare la ruota, se no uno si scoccia, poi se ne va. Ma Gianni, quando ti fai battutine uno con l'altro, passa poi 5-10 minuti e non succede niente, no? Io se manco il parcheggio non succede niente, poi rientro. E magari ci ha allontanato 5 minuti, dai. Franco, hai finito di fare le tue cose. Sono acceso l'incenso, c'è questo bel profumo. No, io non accendo per il cane, capito? Dico che fa male, boh. Fa tutto, fa male. Poi che sciogli in mani, non ti fa di male. Ti mangi la mortadella e ci ha conservati, ti mangi quello e ci ha conservati. Tutto fa male, tutto. E va vabbè, uno ogni tanto ne accendo, non è che l'accendo spesso, Sento silenzio, no? Non sento nessuno cantare già da te. E infatti non sa cantare. Ah, ho capito. In pausa. Io, avanti Franco. Franco si è allontanato, deve fare qualche cosettina, forse a magna. Che ragazzi, vabbè, non c'è più nessuno. Chi è rimasto? Tutti, il nanna solo. E Natale non l'è manco entrato stasera, boh, strano, di solito entra. No, che c'era Natalino prima. Ma io non l'ho sentito, vabbè, stavo facendo quel lavoro al microfono, ero impegnato. E c'è anche Carlo, e c'è la gente, c'era Emanuele. Sì, Emanuele e Carlo li ho sentiti. Adesso mi rimane la capsula, ma non lo so se cambiarla o no, mi sa che lascio questa, se va bene questa lascio questa. C'è una capsula di Tanner, mi hanno dato, e volevo mettermi quella, ma non lo so. Lascia questa che già va bene, è ottimo come radio. Poi c'è anche Giulio, e ce n'è la gente stasera. E sono anche tutti via, tutti su 10. Cappa. Perché poi Manuele l'ho sentito sul 20, c'era Luca, Manuele, eccetera. Se lo trovo mi prendi break, e non mi passano entrare. Ma non mi sentivano. A me qua io faccio break, mi sono canale, non mi passano entrare. Poi con la prova musicale con me, avanti, io ce l'ho intenditi. No, poi già mi hanno portato, mi hanno fatto entrare, ma... perché volevo fare la prova di microfono, avevo appena chiuso il microfono e volevo sapere se stava andando bene. Ma forse quando facevi il break e tu contemporaneamente parlavano altro e quindi non ti sentivano. Se non sentono a me. Ma la siete questa portantina piccolina che devo dire quel rem? Sì, ogni tanto ci tenta e così almeno. Già ne ho poco quel rem, poi per eliminare il scritto. È come che ho messo lo squelch. Ah, che bellino. Antonietto, tu sei e questo lavoretto come glielo fai? Questo lavoretto glielo faccio con la regina, perché ci vuole la regina, tu dire. No, io pensavo un altro lavoretto, sono malizioso. Ma pensare, se stai andando? E certo che sto andando, quando il mare me lo permette, sempre Gianni. Beh, è normale, quello non esci duro male forza l'opera. Sempre col gommone o c'è la barchetta adesso? No, c'ho la barchetta che la sto vendendo, c'erano questi ragazzi, sono venuti a vedere. Mi piace ritarmi quel lavoretto che c'è da fare, tu ci aggiorniamo la settimana prossima. Ti lascio portare anche ad insinuazione, grazie a Tintino, mi faccio fare il viaggio e siamo a posto. Il gommone prima volta non si tocca, lo sto usando 5 minuti, motore 40 cavalli, tu. Vediamo quest'estate, se mi sale il flash, la primavera me lo vendo. Ah, e porti cargo 20 anni, a nuovo. Come si dice, molto un po' faccio le polanco, mi prendo questo gommone per compare giù un altro. Ah, ecco, allora va bene, dai. Se per migliorare sì. Lo sai, a me mi piace fare gli affari, Gianni, lo sai. Poi vabbè, a tutti piace. Poi io già non sono affarista, dico la verità, Non sono mai stato affarista. No, vabbè, qualche volta già mi capita di fare un affare, capito? Questa barca che ho detto, ce la vuoi, posso mi riportare, se no, la vedo me, e qua rimane. No, ho bisogno di istruzione. Sì. E cos'è di quelle tipo maglia nuova? No, è un trimarano, tipo un Angelo Molinari, però invece di essere un 4,30 m, è un 2,90 m. Una marca portatile, la puoi portare anche sul Vego, sull'Imperiale, infatti tant'è vero che la porto così a Tintino. Ce l'ho scesa 50.000 volte a Tintino, sopra la capotania. Chiaro, ma non te ne faccio la macchina così. Ah, lo sa che è una tenuta. Prima io ero schiavo di lì, la pulivo, la lucidavo, facevo, ora è schiava mia. No, io tuttora la pulisco, anche l'altro giorno mi sono fermato, avevo l'aspirapolvere tutta aspirata bene, tutta pulita, cruscotti, tutto quanto. E mi è mancato lucida cruscotti, non ne avevo, se no ne avrei messo anche quello. L'ho profumato, ne ho messo la magica alla vaniglia e c'è un profumo dentro, bellissimo. E già, e ho detto, manco un euro di meno, quello che tu chiesto mi devi dare, faccio questo lavoretto che c'è da fare e te la cedo di giù. Ok, come l'ho imparato, fammi sapere e ci mettiamo d'accordo, così scendi e mi faccio trovare giù al porto che c'è lì al mare, di lì a tutti, ho capito, della porto di lì. Ho detto, vabbè, però sarei lì a pensarci due volte, perché se no fuori non te ne c'ho un tagliettino, lo devo resinare, ma so cagati, capito, non so, so cartati. E vabbè, se riparano quelli lì, sono barche che ripari. Certo che non sono barche che tengono il mare, devi andare col mare calmo. Certo, sono barche che escono a mare calmo, non procedono, al massimo 40 cm di onda, non di più. Perché l'ho provata con 60-70 cm, ti posso garantire che ti entra un bel po' di acqua dentro. No, no. Mi piace più il gommone, lo sai. Beh certo, cazzo, giù un gommone 5 metri, cazzo, può fare in sentina, ci sono il true, il cazzo al stereo, cioè, se sono proprio dentro di un altro pianeta. Anche lo stereo c'è. Ma giù tutto, cazzo, se mi dico come fare, ne poco tu la macchietta di un caffè. Quindi c'hai anche il timone. Il timone, c'è, ti ho detto che io mi siedo, giro la chiave, metto in moto, non c'ho manco cordichella. No, è uomo già, lo facile. Ah, sì, già va bene, là. Pensate se l'hanno comprato anche quelli della pizzeria che c'è qua, perché l'altra volta l'ho visto che c'erano un gommone attaccato, grande. Amico mio, fa detto, ma è piccolino confronto a lui. No, era grande, l'ho visto io. Eia, sempre 4,30 metri, già. Lo sai cosa vuol dire il mare, 4,30 metri, 5 metri, un abisso. Ha pagato, vabbè. Quando vai vai solo sempre. Come? Quando vai a buttare i parametri solo vai. Oh, ma un di volte vado da solo a buttarli, poi a salpare viene qualcuno a buttarmi, capito? Allora qua è chiuso. Vabbè. Ma il garrato non c'è di. Vabbè dai, ci andiamo fra poco. Eia, amati Toni, attenzione, canale 10, c'è rimasto qualcuno per caso? Vabbè, non c'è nessuno. Cambio. Hola, attenzione, canale 10, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hola, 1, 2, 3. Già, due minuti entro io e stavo facendo cosa. Ah, cappa. Io mi sto ascoltando e già mi piace. Già mi piace questa modulazione, cambio. Proprio la mia voce. Beh, già. Beh, Gianni. Siete animali, tutti andati via siete, tutti mangiando, vi si mangiano i golpi, e non c'è nulla, non c'è più nessuno, ciao, buonanotte a tutti. Questo è l'MC60, Tony, come va? Una bomba, Bene va.